E ben ritrovati in onda, sempre su Sono Solo Nuvolette, sempre da Radio Archimede, ritornata in sede, nella sua sede naturale, dopo la trasferta al Salone Internazionale del Libro. Siamo di nuovo dentro la Biblioteca Archimede e qui nello studio ho il piacere di aver portato come ospite questa settimana Manfredi Toraldo, per tutti The Manf. Ciao a tutti, ben trovati. Tu hai un nome importante e poi lo riconduci, te lo lasci abbreviare e ricondurre a questo pseudonimo anglosassone, come mai? Ma in realtà anche in italiano il Manf, alla fine quasi tutti mi chiamano più all'italiana che non all'inglese, però il principio di base è che un grande nome diventa anche ingombrante, quindi magari ridurlo per sembrare meno arrogante può essere utile. Ok, è un trucco anche un po' della cultura pop a volte. Decisamente. Rendere più, semplificare la superficie per poi poter mettere al di sotto un messaggio importante, che è un po' quello che ci insegnano anche i film Pixar, per dire, o DreamWorks, l'animazione 3D, con personaggi molto semplici in superficie ma molto profondi nella profondità. Sono partito male perché non ho detto chi sei. Io lo so benissimo chi sei e tutto l'ambiente del fumetto lo sa, ma visto che cerchiamo di arrivare a qualcun altro, ti introduco un po' seriamente. Benissimo. Innanzitutto, e sceneggiatore e insegnante di sceneggiatura. Esatto. Insegnante di sceneggiatura, soprattutto negli ultimi anni, da quando c'è la scuola internazionale di comics di Torino. Otto anni, internazionale di comics, appunto, la sede di Torino. Quindi sono già 8 anni che disturbi le coscienze di questi giovani sceneggiatori. Sì, che rovino nuovi adepti del fumetto mondiale, non solo italiano, visto che siamo internazionali. Ok, quindi quanti potenziali serial killer sono emersi tra i tuoi allievi? Preferisco non dare numeri, perché potrebbe spaventare il pubblico che ci ascolta. Ok. E poi però la tua, chiaramente, si insegna sceneggiatura perché c'è un retroterra culturale di sceneggiatore sul campo, di esperienza anche nel mondo editoriale, quindi scherzavamo fuori onda su, ci siamo incontrati ad Alba, ce la posso fare, ad Albisola Comics questo fine settimana. Esatto. E c'era qualcuno che ti ha chiesto di 2700. 2700 è ancora un tuo bestseller, o quantomeno un tuo classico? Sì, è il fumetto con il quale ho cominciato. Avevo 17 anni quando ho cominciato con 2700, 23 anni fa ormai. È una cosa che, nonostante tutto, ancora turba le mie notti e sicuramente turba tutte le mie le fiere alle quali partecipo, perché appunto ad ogni fiera c'è sempre qualcuno che mi avvicina un po' per ricordare 2700 o per chiedere addirittura che venga ristampato, cosa che ora come ora non è nei miei programmi, però non è detto che un giorno non si faccia, visto quanta gente comunque. Ok, è un percorso di sceneggiatore che in un certo senso culmina non perché ti sto segnando la fine, ma culmina come presente con il ruolo di sceneggiatore per Nathan Never. Sì, esatto, adesso è da un annetto ormai che sono ufficialmente sceneggiatore di Nathan Never, con purtroppo dei ritmi molto lunghi, perché siamo in tanti a sceneggiare sulla testata della Sergio Boni editore, quindi c'è il problema proprio che la lunghezza, proprio la lungaggine dell'uscita è purtroppo molto più visibile rispetto a quelle di altre testate. Però sai comunque già qual è il prossimo albo in cui potremo leggerti in edicola? No, non posso ancora fare, purtroppo non posso ancora dare delle date certe. Io stesso sto ancora aspettando di avere delle notizie precise. Okay. È in lavorazione, intanto appunto sono state già preparate altre sceneggiature, però ancora non posso. Proprio Nathan Never, poi tra l'altro, in un periodo anche un po' di rielaborazione, un po' tutte le testate della Sergio Bonelli sono in rielaborazione, in aggiornamento, diciamo, e anche Nathan ovviamente non sfugge da questa logica, e bisogna vedere esattamente che cosa capiterà nei prossimi mesi. Quindi qualunque cosa possa dire adesso è probabilissimo che venga smentita nel giro di un mese, quindi è inutile che faccia supposizioni. Anche Nathan Never comincia ad avere una lunga storia sulle spalle, è il fumetto di fantascienza di Sergio Bonelli editore, e in un certo senso è il fumetto di fantascienza italiano, direi, perché per varie ragioni il fumetto Bonelli in tanti casi coincide con il fumetto, quantomeno nella percezione collettiva, poi e quantomeno limitatamente al fumetto realistico. Poi per il fumetto umoristico ci sono tanti altri personaggi che niente hanno a che fare con Bonelli, e poi ci sono dei outsider di lusso come Diabolik, che ha una storia più lunga di molti personaggi Bonelli, ancora è alive and kicking. Sì, però appunto un Diabolik è rimasto per alcuni versi per conto suo, nel senso che la testata della esatto. storina, mentre invece Bonelli ha provato sempre a fare tante cose. E sì, ormai Nathan Never ha 25 anni, quindi anche è una cosa, tra l'altro proprio li sta per compiere ufficialmente, anche lì una bella data. C'è sicuramente un discorso sulla fantascienza che sarebbe bello fare contemporaneamente con i tre autori, Meddas e Revigna, su come sia cambiata la fantascienza che loro si immaginavano e la fantascienza rapportata 25 anni dopo con il nostro presente. Assolutamente. Qualcosa è reale, qualcosa no, qualcosa ci siamo arrivati, qualcosa forse non ci arriveremo mai. Beh, è uno dei grossi problemi della fantascienza. Quando faccio appunto lezione a scuola spiego sempre come comunque il genere fantascientifico sia uno dei più difficili in assoluto, perché è quello che appunto ti porta ad avere delle cose che possono invecchiare veramente nel giro di pochi anni. Nathan Never, facciamo un esempio molto semplice, ha cominciato parlando di un futuro di quasi 1000 anni successiva alla data in cui è stato pubblicato, dove per far vedere la grande tecnologia avevamo dei computer potentissimi, ma che avevano ancora per esempio lo schermo a tubo catodico, che ovviamente adesso ci fa ridere, però per allora sembrava comunque semplicemente che uno schermo a tubo catodico fosse molto più realistico che uno schermo tipo quelli che possiamo vedere nei film di adesso, neanche di fantascienza ma di supereroi, quindi con schermi olografici tipo quelli che usa Iron Man, per dire. Però allora era un qualcosa di forse troppo avanti, forse troppo assurdo da rappresentare. Ma la cosa incredibile ovviamente è che al giorno d'oggi li stanno studiando veramente, cioè ci sono già dei prototipi di schermi olografici funzionanti, e quindi diventa ridicolo pensare che fra 1000 anni uno possa avere gli schermi a tubo catodico. Ma infatti una parte della tecnologia contestualizzata nella società si è evoluta molto di più di ciò che la immaginava, del modo in cui la immaginava la fantascienza. Sì. Un'altra, la parte sociale è rimasta la stessa per molti versi, anzi è cambiato il sistema socio-economico, quindi qui si aprirebbe una parentesi mostruosa. Ma, oddio, in realtà se vediamo anche la parte sociale è stata predetta in parte dalla fantascienza, perché se vediamo per esempio le grandi corporation che erano state annunciate da Neuromante e altri lavori di questo genere. Però il concetto di base è che sì, la fantascienza, cioè la scienza, la tecnologia, tutto quello che comunque è il nostro vivere quotidiano è diventato fantascienza in un attimo, solo che noi non lo recepiamo così. Esatto, cioè, non ce ne siamo accorti. E infatti io faccio sempre l'esempio quando da bambino vedevo, che ne so, il grande Mazinga che comunicava con la fortezza delle scienze, con l'immagine che appariva su un grande schermo, e mi sembrava assolutamente una figata. E adesso Skype è esattamente quello, solo che fa molto meno figo perché non c'è il robottone da combattimento dall'altra parte, e per fortuna, pensando a quello che potrebbe realizzare una Microsoft con un robotone a combattimento che si blocca ogni minuto. Ma tra l'altro è al di sotto dei nostri piedi o della nostra percezione in molti casi, quantomeno delle persone comuni. Ma la robotica in questo momento sta sviluppando dei prototipi che sono veramente fantascienza. C'è un saggio molto carino pubblicato da Codice Edizioni, carino, scusate il termine totalmente inadeguato, molto interessante, che si intitola Spaghetti Robot, pubblicato da Codice Edizioni, che è una casa editrice qui torinese. E per esempio propone tutta una serie di innovazioni che stanno succedendo sotto i nostri piedi o comunque fuori dalla nostra portata, eppure sono naturali evoluzioni. Per esempio, chi ci guarda in webcam, faccio anche il gesto, oramai tutti siamo dipendenti dagli smartphone, ma nel momento in cui ci sarà un robottino che ti sposta lo smartphone e ti fa da segretario, cioè lo smartphone è già il nostro segretario, ma stanno sviluppando dei modi per fare in modo che gli smartphone diventino dei robottini che ti seguono per la casa e ti aiutano a gestire la casa. Assolutamente. Beh, già la domotica in sé è qualcosa di impressionante da quel punto di vista. Ma d'altronde, sai, tu prima, fuori trasmissione, per chi ovviamente non ha potuto assistere alla cosa, mi hai proposto una sfida chiedendomi quanto tempo ci avremmo messo a parlare di una certa serie televisiva, e in realtà sfondo subito il problema dicendo che in realtà il modo migliore per parlare di fantascienza a livello diciamo narrativo, senza rischiare di invecchiare, è proprio fare come ha fatto la prima serie di fantascienza televisiva, è una delle più importanti del mondo, che ormai tutti conoscono perché è diventata anche di moda grazie alla moda nerd moderna, che è appunto Doctor Who. E il segreto è appunto, per fare una fantascienza che non invecchia, fare una fantascienza che sia assolutamente inspiegabile. il gioco comunque del Wimbly Bobbly Boo del viaggio nel tempo che il dottor Who si rifiuta di spiegare, perché nel momento stesso in cui desse una sola spiegazione scientifica questa cosa comunque diventerebbe automaticamente vecchia. Facendo invece vedere che la sua tecnologia è talmente avanti da essere praticamente paragonabile a una magia, perché non è assolutamente spiegabile in nessuna maniera che noi possiamo comprendere, perché è un po' come se noi andassimo indietro nel tempo e provassimo a spiegare ad un cavernicolo che ancora neanche conosce la ruota a spiegargli come funziona un motore a scoppio, è impossibile. E quindi il principio del dottor Who, che dice io ti posso dire una cosa ma tanto non è assolutamente neanche vicino a quello che tu puoi immaginare, automaticamente si crea una fantascienza che può evitare di invecchiare. Nel momento in cui invece vogliamo fare una fantascienza realistica, spiegabile, o andiamo su delle teorie, e la teoria allora diventa non invecchiabile, un esempio Asimov, oppure se voglio comunque far vedere una tecnologia, e il problema è che nel momento in cui faccio un film o faccio un fumetto, ovviamente la tecnologia è da vedere, appunto, o vado su un qualcosa di pressoché magico tipo un TARDIS, oppure qualunque cosa io faccia, domani sarà già vecchio. Ma è ancora fantascienza nel momento in cui non c'è l'apparato scientifico alla base? Qui è teoria dei generi hardcore, quindi andiamo subito nel cattivo. In realtà una cosa di cui non si rende conto quasi mai nessuno è che la fantascienza non c'entra nulla con quello che noi crediamo centrare. Cioè, la fantascienza in realtà, e questo è sempre il discorso che faccio quando inizio a parlare proprio del genere al corso di sceneggiatura, in realtà è un genere sociale. Nel senso che la fantascienza nasce dalle invenzioni più assurde. Paradossalmente il fantasy nasce dalla fantascienza, proprio perché in realtà la fantascienza è solo una scusa per poter analizzare la società attraverso un qualche cosa che cambia, che causa un cambiamento all'interno di questa società. Quindi in realtà se questa cosa è comunque costruita in maniera credibile, che non vuol dire realistica, ma vuol dire appunto credibile, verosimile, esatto, allora assolutamente sì, è fantascienza. È fantascienza sicuramente anche un Dottor Who, ovviamente è una fantascienza come il Dottor Who che sfocia facilmente nel fantasy, e tant'è vero che tante puntate del Dottor Who sono smaccatamente fantasy, però sì, è fantascienza. Nel momento stesso in cui noi comunque ci poniamo dei dilemmi sociali, sociologici, abbiamo la fantascienza. Ma infatti probabilmente uno dei... delle chiavi del successo del Dottor Who di Russell T. Davis, qui tanto per dire, Russell T. Davis, lo sceneggiatore di Queer as Folks, di molti altri titoli britannici, che non aveva niente a che fare con la fantascienza, tra l'altro, e ha riportato in vita nel 2005 Dottor Who, dopo uno iato di alcuni anni. La serie ha fatto 50 anni due anni fa, quindi dovrebbe essere 52, dovrebbe essere a quota 52-53. E un telefilm che aveva tutta quella storia era stato interrotto negli anni 80 e lo ha riportato in vita Russell T. Davis. Poi è cambiato lo showrunner, che per chi non è del settore è lo sceneggiatore capo, che ha vissuto su Marte fino a ieri fondamentalmente. Lo sceneggiatore capo che dirige tutti gli altri sceneggiatori come un direttore d'orchestra, e Russell T. Davis ha fatto un lavoro eccezionale in questo senso, perché molte storie di Doctor Who, quelle ambientate nel presente con Tennant, prendono spunto da elementi della nostra contemporaneità rigirandoli in fantascienza o con un'invasione aliena. Io penso all'Atmos nel doppio episodio con i Sontaran della quarta stagione, credo che sia, in cui il navigatore satellitare, ciò di cui stiamo diventando dipendenti sulle automobili, diventa strumento degli alieni per l'invasione della Terra. E addirittura nella seconda stagione, quella introduttiva del decimo dottore, c'è tutto quell'elemento della popolazione che ha questa specie di auricolari nell'orecchio, slegati, auricolari slegati, collegati via satellite, immagini, così. Sì, il concetto del telefonino moderno, che anche quello diventa un qualcosa per schiavizzare la popolazione. Esatto. È stato, non credo che ci sia qualcos'altro, quantomeno nella narrazione popolare contemporanea, che ha saputo prendere così tanti elementi, così tante idiosincrasie della nostra società e girarle in elemento fantastico, in elemento d'avventura, ma anche di inquietudine. Assolutamente, beh, d'altronde di nuovo poi si parla di generi narrativi che sono molto legati, appunto abbiamo detto fantascienza e fantasy, ma anche appunto l'horror sono poi comunque figli degli stessi concetti, con la differenza appunto che l'horror va più nello specifico personale, mentre invece la fantascienza spesso e volentieri tocca più questioni appunto che riguardano un'intera società, facendo notare, beh, d'altronde prima ho citato appunto Asimov, il concetto per esempio delle tre leggi della robotica. tra le leggi della robotica che sottolineano come giustamente se un domani facessimo dei robot senzienti in qualche maniera dovremmo pararci culo, si può dire pararci culo a una web radio, oramai l'hai detto, quindi dannazione, va bene. E comunque appunto in qualche maniera bisogna cercare di salvarci i fondelli, perché il principio di base è quello che comunque dobbiamo tenere sotto controllo la tecnologia, cosa che tanto ovviamente, come tutta la tecnologia ha sempre dimostrato, troverà sempre appunto un modo per rivoltarcisi contro. Potrei sorprenderti dicendo che le stanno sviluppando le leggi della robotica basate su Asimov. Assolutamente. Però sì, perché riguardano tutt'altro. Esatto. Ma il principio di base è che appunto Asimov ragionava, come d'altronde tanti altri bravi scrittori di fantascienza, ragionava da scienziato e non da scrittore. Quindi il concetto di base, lui per prima si è posto il dubbio, ma nel momento in cui effettivamente tutta la fantascienza parla di robot assassini, ma se un domani veramente facessimo dei robot, perché dovremmo metterci in pericolo? E giustamente ha risposto da scienziato alla cosa. Infatti invece ciò su cui stanno lavorando adesso l'industria della robotica, tra l'altro c'è un bel, l'Italia è in pole position insieme al Giappone in questo, però ciò su cui stanno riflettendo è: ma nel momento in cui c'è un robot domestico e cade e fa male un bambino, di chi è colpa? Il robot non può essere colpa del robot, quindi è colpa della casa produttrice o di chi, del proprietario dell'oggetto. Queste sono ragioni purtroppo molto meno scenografiche, molto meno interessanti, però nel momento in cui metti sul mercato qualcosa del genere, assolutamente. Ma in realtà pensa che bella storia potrebbe venire fuori, un bel legal drama su un concetto di questo genere basato su un apparato fantascientifico di partenza, però appunto un legal drama affascinante. Questo è interessante, questo è bello, è il motivo per cui è bello avere uno sceneggiatore in trasmissione, perché gli spunti fioccano e nascono automaticamente. Prima canzone, se no parliamo a raffica. E comunque parleremo ancora di raffica, parleremo ancora di fantascienza, parleremo di fumetto e di tutto quello che ci viene in mente liberamente, col limite solo dell'ora, quindi a un certo punto ci dovremo autolimitare. Il primo pezzo è delle Zeppelin, perché mi sono accorto di non aver mai attinto alla più grande band rock di tutti i tempi. Potrei essere smentito su questo, perché non tutti sono d'accordo con me, però mi spiace, il DJ sono io. Le Zeppelin, Good Times, Bad Times. Rieccoci in onda, sempre sono sul Nuvoletto e sempre con Manfredito Araldo. Il punto è che siamo partiti larghi, ma parlare di Manfredito Araldo senza parlare di Manfont mi sembra di come... Mi viene da fare la battuta, cioè che siamo partiti larghi perché io sono largo, ma non era forse quello che intendevi. Ma no, ma per carità, questo basso va a spettacolo, sono solo nuvolette, ma in realtà siamo... Parlavamo di fantascienza, società, eccetera, poi al massimo parliamo anche di Terence Hill e Bud Spencer. Esatto. Che sono parte comunque del nostro patrimonio di cultura pop. No, ma parliamo pure italiano. Della Manfont, dai, ben volentieri. Anche io, parliamo pure di Terence Hill e Bud Spencer. Anche, sarebbe anche bello parlare di Terence Hill e Bud Spencer alla Manfont, ma per ora ancora non ce l'abbiamo fatta. Infatti. Allora, Manfont mi pare che intanto sia un discorso evolutosi nel tempo. Manfont adesso è un collettivo di autori. Sì. Ma prima è stato qualcos'altro. Allora, vabbè, proprio se parliamo della preistoria e quindi stiamo parlando di più di 10 anni fa, la Manfont è nata proprio solo come service grafico per i fumetti, quindi dal lettering alla grafica all'impaginazione, e appunto per questo l'ho dato il mio nome, perché io oltre ad essere sceneggiatore sono appunto grafico e letterista. E quindi appunto nel momento in cui ho dovuto aprire una partita IVA, molto semplicemente ho cercato un nome per questa società, l'ho chiamata Manfont, che come dice una mia cara amica fondamentalmente vuol dire uomo di carattere in qualche maniera. Wow. Ovviamente non era stata poi cercata così, però rende l'idea. Sembra quei sottili eufemismi con cui ti trattavano bene gli amici, uomo di carattere. Sì, abbastanza. E tra l'altro carissima amica che adesso fa parte della nuova incarnazione della Manfont, diciamo della terza incarnazione della Manfont, perché dal service siamo passati poi per un certo periodo insieme a quello che attualmente è il mio socio diretto, diciamo, tra l'altro collega e socio anche proprio su Nathan Never, che è Luca Baino, che mi convinse all'epoca a provare a fare dei fumetti su iPad, quindi la parte digitale appunto della... solo che siamo stati un pochino troppo... siamo partiti troppo all'inizio di tutto questo fenomeno, che tuttora ancora fa fatica a decollare, e all'epoca era veramente troppo troppo presto, stiamo parlando di 5 anni fa, era qualcosa di veramente troppo troppo agli inizi. Sicuramente il mercato digitale del libro, del fumetto, continuerà a lungo a essere una branca di quello tradizionale. Sì, ma in realtà ha senso, proprio fuori onda stavamo parlando dell'MP3 e del vinile, il fatto è che comunque io sono assolutamente convinto che il fumetto, come anche il libro, debba avere poi una sua versione in MP3 equivalente, cioè un qualcosa che comunque sia la comodità di lettura, la comodità per portarti dietro. Io comunque, se viaggio, per esempio adesso domani devo andare a Roma, in treno comunque sul mio iPad avrò intere biblioteche di libri di fumetti da potermi leggere e sfogliare, mentre in realtà sto scrivendo, perché dovrò lavorare nelle 4 ore di treno che mi aspettano. Però il principio di base è... Quindi spera di non trovare bambini urlanti e... assolutamente. E, però il problema di base è che l'MP3 ha avuto successo per due grossi motivi, secondo me. Intanto perché è di facile creazione, nel senso che comunque alla fine chiunque avesse in casa un CD si faceva un MP3 in 5 secondi e aveva quindi un qualcosa di comodo da portarsi via. E nel momento in cui è arrivato comunque un iTunes, perché poi è ad iTunes soprattutto che dobbiamo il successo dell'MP3, che ha cominciato a dire ok, allora io ti vendo una canzone direttamente in MP3 o equivalenti con una spesa veramente minima, allora la gente ha detto ok, a questo punto non voglio neanche più stare a farmelo io, me lo compro, perché tanto un euro per una canzone sono contento. Ora come ora il problema del libro o del fumetto è che non hanno né questa velocità di creazione, nel senso che comunque tu non puoi fare un ebook o un comic book su iPad o su un ebook reader in 5 secondi, hai comunque una grossa difficoltà di sviluppo. E in più c'è il problema che se te lo vuoi andare a comprare, ormai anche per le leggi stupide che abbiamo qua in Italia, ma una cosa che in realtà onestamente lo dico, lo trovo stupido come lo stanno gestendo in tutto il mondo, comunque alla fine un libro elettronico ti costa quanto un libro cartaceo, ma non hai l'oggetto e la gente alla fine non ha voglia di spendere 10 euro per una cosa che non hai, perché alla fine non ce l'hai fisicamente. La gente è ancora molto legata al concetto di supporto non solo visivo ma proprio tattile. Se io non ce l'ho e con me non ho pagato qualcosa per nulla. E quindi questa cosa qua, finché non si risolveranno questi due problemi, quindi finché non costeranno veramente poco i libri digitali e finché sarà difficile comunque farli, non avremo comunque questo sviluppo. Un giorno però questo sviluppo io sono assolutamente convinto che ci sarà, cioè avremo l'equivalente dell'MP3, perché è semplicemente comodo. Beh, è inevitabile che ci siano resistenze da parte dell'industria culturale tradizionale, dell'industria libraria tradizionale. Questo vale per l'Italia ma vale anche per gli Stati Uniti. Non per niente dicono che tutto il movimento degli indie publisher, cioè sono tutti gli autori, abbiamo tutti e due i piedi troppo lunghi, quindi ci siamo tamponati sotto il tavolo. Uno parte per fare un discorso serio e poi dice delle minchiate. Vabbè, pazienza. Si può dire minchiate? Sì, l'ho appena detto. Okay. È inevitabile la resistenza da parte degli operatori economici più grandi. Una delle rivoluzioni è stata Amazon, che permette di pubblicare direttamente gli ebook sulla propria piattaforma, quindi non serve più l'intermediario, l'editore, ma l'autore può essere editore di se stesso tramite il distributore. In quel caso lì Amazon fa sia distributore che editore, ma in realtà non fa l'editore, perché non fa nessun filtraggio del contenuto. Al limite Apple fa un po' di filtraggio del contenuto. Sì, Apple ne fa parecchio. È un discorso di linea diversa. Però c'è chi dice che Amazon ha aperto agli indie publisher o autori autopubblicati, però indie publisher è più figo, per imporre un abbassamento di prezzi alle major editoriali, perché a quel punto lì... In un qualche senso sì, in un qualche senso il discorso è questo, ma e con questo mi hai dato un ottimo aggancio per parlare dell'attuale identità della Manfont, che è appunto... Sono qui per questo. Giustamente, è appunto una realtà di autoproduzione, nel senso che comunque questo discorso ottimo sul digitale però ancora sta funzionando un po' poco anche all'interno dell'Amazon, proprio perché poi non c'è un controllo della qualità del prodotto. Alla fine Amazon non garantisce che quello che venga venduto sia qualcosa di valido, mentre in qualche maniera comunque, per esempio, se uno avesse pubblicato, adesso uno può tranquillamente farsi una canzone e venderla attraverso iTunes, per esempio, però se non è di una certa qualità iTunes te la rifiuta. Il principio di base è che comunque Amazon, finché non fa da filtro, non garantisce anche un po' la qualità di quello che pubblica, non potrà mai cambiare in qualche maniera il mercato. A livello di autoproduzione, però, per esempio, la Manfont a livello cartaceo adesso invece sta cercando di fare questo, ovvero la nuova incarnazione della Manfont, nuova ormai da un paio d'anni, sarà la nostra terza presenza a Lucca, alla prossima Lucca che arriverà quest'anno, è in realtà una casa editrice di autoproduzione che però garantisce la qualità dei prodotti, nel senso che in realtà non siamo una vera e propria casa editrice, ma siamo un'aggregazione di autoproduzione. L'autoproduzione è forse al giorno d'oggi la grande soluzione della crisi editoriale, come stanno dimostrando in qualche maniera anche dei grandi autoprodotti che poi sono diventati in realtà la nuova linfa dell'editoria tradizionale, come per esempio uno Zero Calcare. Zero Calcare comunque ha cominciato autoproducendosi, autopubblicandosi. La Manfont fondamentalmente cerca di fare in modo che chi si vuole autopubblicare, se ha veramente qualcosa di valido da dire, a nostro insindacabile giudizio, perché poi alla fine ci deve essere qualcuno che si assume la responsabilità nel bene e nel male anche di dire sì, questa è una cosa interessante oppure no, hai ancora un pochino di strada da fare, e grazie appunto a quello che diventa il filtro Manfont, il prodotto che verrà dato al pubblico sarà di qualità intanto come pubblicazione, ma poi anche come contenuti, di qualità non di genere, nel senso che noi non sindachiamo sul genere, possiamo pubblicare assolutamente qualunque cosa, il principio è che debba essere fatto assolutamente bene questa cosa. Ti do io l'assist così non fai la figura, faccio io il commento negativo sull'industria culturale così non lo fai tu. C'è stata un'esigenza a un certo punto da parte degli autori di scavalcare gli editori, perché gli editori esistenti non erano in grado di intercettare l'esigenza di nuove idee da parte degli autori, ma anche l'esigenza di nuove storie da parte dei lettori. Assolutamente, ma io una cosa che lo dico sempre, a parte il fatto che è semplicemente utile pensarlo a livello pratico, però io parto sempre dal concetto che l'editore sia stupido, che ovviamente è una provocazione. Però il concetto di base è che l'editore ovviamente fa il suo mestiere, che non è quello del creativo, e ha che è quello appunto del commerciante. Il creativo... In realtà un buon editore, come ci insegnano Giulio Einaudi, Sandro Ferri di O, dovrebbero essere entrambi, però questa assolutamente, è una parentesi. Assolutamente, però comunque mediamente è anche giusto che ognuno faccia il proprio lavoro. Il problema di base è che l'editore, non sapendo che cosa si vuole creare, tende a guardarsi attorno e pensare che cosa vuole il pubblico, che è una delle frasi più, che è tra l'altro il mio cavallo di battaglia, tutti i miei studenti lo sanno e probabilmente se c'è qualcuno di loro in ascolto odierà sentire per l'ennesima volta questa frase, però è assolutamente vero che dire che il pubblico voglia qualcosa è forse la cosa più stupida in assoluto, perché semplicemente il pubblico non può sapere cosa vuole perché non ha idea di che cosa gli si possa offrire, e allora è importante che arrivi l'autore che possa dire ok, però io ho quest'idea, ci proviamo. Ma l'editore mediamente ha paura di testare un'idea completamente nuova, è lì che io gli do dello stupido, ma capisco il problema, perché il problema è che comunque fare fumetti è costoso, onestamente. Più che costoso, perché sta scemando molto il costo del fumetto cartaceo, uno dei motivi per cui la Manfont si è messa a digitare cartaceo. Potremmo dire che è oneroso più che costoso? Oneroso, ma soprattutto sai cos'è il problema? Perché l'onere è più una serie di meccanismi complessivi, non solo il metterci il capitale. Esatto, però non è solo quello, cioè il problema di base è ancora un altro secondo me, che è molto poco remunerativo, nel senso che un fumetto anche che vende tanto ti dà poco a livello economico, quindi comunque se uno pubblica un libro, che adesso parlo di editoria normale, un libro ti può costare 10 e restituirti 50, per fare numeri assolutamente a caso ma per capire le proporzioni, un fumetto ti costa 10 e se ti va bene ti rende 15. E con quei 5 in più però non ci guadagni, 5 volte tanto ci guadagni, ci vivi, ci campi e ci investi su un nuovo libro. Facendo invece solo un 5 in più, quindi da 10 a 15, non hai, e dici sì, ok, più o meno ci abbiamo campato, ma adesso che devo investire su un altro fumetto continuo a intaccare le mie risorse originali. Ed è un problema molto grosso. E questo è un problema che probabilmente intacca l'innovazione del comparto fumetto in Italia. Sì, perché comunque appunto poi l'editore, nel momento in cui vai da lui dicendo anche ehi, ho questa idea che è fighissima e probabilmente funzionerà, nel momento stesso in cui si può usare il vocabolo probabilmente, ovviamente si blocca, perché dice sì, però io non so se questa cosa poi veramente funziona, quindi continuiamo a fare cose come quell'altra cosa lì che invece abbiamo visto funzionare, poi in realtà massacrando il mercato. quasi sempre. Continuiamo a parlarne poi dopo, siamo diventati troppo seri, quindi dopo parliamo di Bud Spencer e Terence Hill. Okay. Prossima canzone è anche rock, è parte della, in un certo senso, di tutto questo patrimonio di cultura popolare, di mondi dell'immaginazione, prova ne è come il cinema attinto al rock. E mi piace mettere anche il pezzo di una band poco conosciuta, che però ha avuto parecchia influenza su tutto il rock successivo. Parliamo degli anni 60, parliamo dei Free e parliamo di un pezzo che si chiama Mr. Big. E rieccoci dopo Mr. Big, sempre su Sono Solo Nuvolette. Cliccate mi piace sulla pagina Facebook, così sono contento. E cliccate mi piace anche sulla pagina Facebook di Manfont, così è contento anche il mio ospite di oggi, Manfredi Toraldo. Qui sì, cosa non si fa per un mi piace sulla pagina di Facebook? Sì, è letteralmente prostituzione. Esatto. Manf, fai outing, sei un nerd tu? Assolutamente sì, non potrei fare il lavoro che faccio altrimenti. Ok, quindi da nerd, anche prima che fosse figo, come lo percepisci questo mondo in cui improvvisamente essere nerd è diventato figo? Ma in realtà è bello perché ci si può, non, ci, si può uscire dall'ombra, no? Finalmente, appunto, si può fare coming out senza paura e dire sì, effettivamente sono nerd, e anzi addirittura sembra una cosa figa adesso essere nerd. In realtà rimaniamo gli stessi sfigati di prima, onestamente. però no, in realtà mi diverte, sono contento. Un po' ovviamente patisco, spiego, io sono quello che comunque negli anni 80, quando tutti leggevano Stephen King, non lo leggeva solo perché lo leggevano tutti. Okay. Poi dopo, anni dopo, ho detto cazzo, però è bravo Stephen King, quindi in realtà avrei dovuto leggerlo anche prima. Però il principio di base è che a me piace in qualche modo far parte di un'elite, e quindi anche se effettivamente il nerd è sempre stato lo sfigato, si è anche sempre appoggiato a quella garanzia, a quella sicurezza di far parte di un circolo chiuso con pochi iscritti. Adesso invece il circolo si è aperto, è diventato di moda, e quello un pochino è triste. Diciamo che è bello però non doversi vergognare anche davanti alle ragazze di essere nerd. Beh, credo, mi sembra Roberto Recchioni, che è un po' uno dei primi ad aver detto che essere nerd è figo, anzi puoi accomunare, lui butta nel calderone anche la pornografia, butta nel calderone qualsiasi cosa. E in una recensione recente, credo di Avengers 2, ha parlato delle finte ragazzine finte nerd che sono snervanti. Sì, è vero, è vero. Ma cioè, allora, sicuramente è facile vedere, che ne so, ad una fiera di fumetti tante ragazze come una volta non potevi neanche immaginare. Io mi ricordo ancora quando a Lucca Comics, nel palazzetto, sto parlando di 20 anni fa e passa, tu comunque andavi e se vedevi in lontananza una ragazza, in realtà vedevi un fremito nella forza che si smuoveva per tutti i partecipanti alla fiera, perché non sapeva neanche che cosa fosse quello strano essere. Infatti il nuovo luogo comune dei fumettisti è: si stava meglio quando a Lucca si era dentro il palazzetto. Esatto, che è proprio l'equivalente del si stava meglio quando si stava peggio. E quindi è un mondo in cui le donne sono entrate pian piano Di soppiatto. Pure così, ma grazie a Dio sono entrato. Cioè, adesso voglio dire, coming out per coming out, cioè, onestamente il principio di base è: per fortuna adesso c'è, ci sono tutti e quattro i sessi nel mondo dei nerd. Cioè, io sono contentissimo della cosa, e anzi devo dire che, per tornare un attimino serio, io mi sono sempre vantato proprio che il mio fumetto originale 2700 avesse un grandissimo pubblico femminile, una nutrita schiera di lettrici, perché comunque, tra l'altro, era il periodo in cui il fumetto stava cominciando ad aprirsi al pubblico femminile, proprio grazie a un Dylan Dog che è stato letto da tantissime ragazze, e cavolo, era ora, già allora si cominciava a dire sarebbe il caso di, e fondamentalmente perché poi siamo un po' di tutti bastian contrari, per dirla alla piemontese, il principio di base è proprio che adesso che comunque finalmente abbiamo ottenuto questa cosa che volevamo, ovviamente ce ne dobbiamo lamentare. Eh beh, questo assolutamente. Avengers Age of Ultron, sì o no? Ni. Ma questo perché sostanzialmente siamo anche paraculi, perché siamo contenti che nerd sia il nuovo mainstream. Quindi parlarne totalmente male, quantomeno chi è parte dell'industria, non lo farà mai. No, assolutamente no. Comunque è ovvio che parte del nerdismo sia anche proprio il fatto di comunque criticare qualunque cosa, perché il nerd non è mai contento per principio. Però, d'altronde appunto, guarda Big Bang Theory, tutti i dialoghi dei vari amici, Leonard Sheldon, eccetera, eccetera, sono sempre incentrati sul criticare qualcosa, mai sul dire, ah, che bello quello. Certo. Ma il concetto di base è comunque, per parlare di Age of Ultron e quindi i nuovi Avengers, che in effetti, boh, è stata secondo me un'ottima seconda puntata di un grande telefilm, ma non quel grande film che avrebbe potuto essere, soprattutto critico molto proprio Ultron come è stato gestito, nel senso che è troppo biologico. L'impatto è quello. In linea di massima probabilmente l'effetto è giustamente di serie TV, penso che pesasse moltissimo il fatto di essere oramai una parte di un tutto. È portato all'estrema conseguenza i Nightmare, in cui i Freddy smettevano di ucciderlo tra un capitolo e l'altro perché tanto sapevano che sarebbe tornato dal 4 in avanti. In qualche modo sì, in qualche modo sì. Oppure anche l'Expanded Universe di Star Wars, che l'Expanded Universe di Star Wars sono tutti i libri, i videogiochi, i fumetti usciti dopo la trilogia classica, durante l'unica trilogia, perché ora come l'altra non esiste, lo sappiamo tutti che in realtà è solo un incubo dal quale ci dobbiamo ancora svegliare. E aspettiamo Jar Jar Abrams cosa farà di Star Wars. Jar Jar Abrams è già interessante. No, io onestamente di J.J. Abrams la battutaccia. J.J. Abrams è regista di Star Trek, del reboot di Star Trek, di una delle menti dietro Lost, poi in realtà penso che lì ci sia più lo zampino degli sceneggiatori, eccetera. Dirigerà episodio 7 di Star Wars. Quindi, scusa se ti ho interrotto, però ti riconduco a Star Wars 7, aspettativa grande oppure piccola? Grande. Ok. Perché? Hai fede nella forza? No, nella forza no, perché sennò rischiamo di avere di nuovo i midichlorian. No, ho fede nel fatto che ci sia per finalmente un bravo regista, o perlomeno un regista che sa fare il suo mestiere, se non uno bravo, dietro al reboot. Chiamiamolo reboot anche se ovviamente non è tale. Nel senso che comunque la cosa brutta che abbiamo avuto nel terzo episodio, che è stato lasciato in mano nel primo, secondo e terzo episodio, quindi nella seconda trilogia, chiamiamola così, apocrifa, quella che io ritengo assolutamente apocrifa. Secondo me è molto più reale l'Expanded Universe, appunto, di cui parlavamo prima. Rispetto alla trilogia partito con il pessimo episodio 1, che è stato appunto fatto da gente totalmente incapace di capire cosa voglia dire veramente fare un film. Se non altro J.J. Abrams un film sa come lo si deve fare. Ma infatti il discorso interessante potrebbe essere che Star Wars arriva all'interno, ritorna in questo multiverso diciamo multiverso perché in realtà le property di Star Wars insieme alla Marvel e di Walt Disney, sì, che è la multinazionale dell'intrattenimento per bambini e adolescenti. Porca miseria, sì. Ecco, infatti Star Wars arriva in questo multiverso che adesso ha speso un po' dell'universo multiverso Marvel, perché ci sono stati passi falsi con alcuni personaggi Marvel. Passi falsi per noi nerd, ma penso passi falsi per il mondo, perché ci sono stati anche titoli onestamente Iron Man 3 è stata una schifezza senza senso, e comunque sì, Agent of Shield di nuovo è stata una cosa veramente, che dire, imbarazzante poco. Ecco, adesso partirò al flame perché a me sono piaciuti tutti e due. Ma questo è un problema mio, perché Iron Man 3 a me è piaciuto il fatto che smitizza totalmente, butta via il supereroe, non è più un film di supereroi Iron Man 3. Sì, ma magari fare un film fatto bene, anche se non di supereroi. Comunque non saremmo nerd se non ci mettessimo appunto a discutere sul fatto che secondo me un lato è rosso, per te un altro lato è blu. Ah, questo è assolutamente sì, come il meme su Facebook, certo. Esatto. No, il discorso vagamente serio era che probabilmente sul multiverso Marvel si è sperimentato, adesso è diventato un multiverso cinematografico. Multiverso è una parola che oramai utilizzo, è semplicemente una contrazione tra il multi, una distorsione di universo e multi, giusto per ampliare tutte le possibilità, e credo che il primo a utilizzare il termine multiverso sia stato Michael Moorcock, che è un padre fondatore della fantascienza britannica, un po' dimenticato in Italia per una serie di ragioni editoriali, immagino. Uno scrittore veramente eccezionale. Esatto. Però guarda, se devo lanciarmi invece contro il discorso della Cinematic Universe, quindi l'universo cinematografico della Marvel, l'unica cosa che a me sta dando fastidio non è tanto quello, perché in realtà la Cinematic Universe della Marvel secondo me è molto interessante, quello che mi sta dando veramente fastidio è che questo sta andando troppo a impattare sull'universo fumettistico della Marvel. Fatto stesso che adesso stiano rielaborando retroattivamente un sacco di narrazioni, perché per adattarle comunque all'universo cinematografico, a me dà seriamente fastidio, perché teniamoli separati e basta. Tanto è inutile, si sa, o almeno l'avrebbero dovuto capire, che non si acquisiscono lettori attraverso Cinematic Universe, perché tanto chi si avvicina non è perché di colpa abbiamo detto che Quicksilver e Scarlet non sono più figli di Magneto, che in realtà sarà interessato a leggere i fumetti Marvel. Se lo è e basta. E quindi è veramente stupido fare queste retcon, come si chiamano in gergo tecnico. Ok, assolutamente. Comunque, e questo ce l'ha detto Sibi Sebuschi a Torino Comics 3 anni fa, mi pare, che non c'è una ricaduta effettiva. Marvel stessa sa che non c'è una ricaduta tra nuovi tra spettatori di film e acquirenti delle testate da edicola. Assolutamente, quindi questo tradimento narrativo è veramente inutile. Ok, molto interessante. Poi riprenderò il filo del perché stavo collegando Star Wars a Marvel, non solo per questione di proprietà oggettiva da parte di una major dell'intrattenimento. Però mettiamo la terza canzone, che dovrei ricordarmi qual era nella playlist, ma non mi ricordo assolutamente, quindi sarà una sorpresa anche per me. Ah, ok, sì, grazie Filippo. Anche qui attingiamo, siamo sempre, volevo rimanere nella scena britannica, anni 60 e 70, quindi non potevamo esimerci, avendo parlato anche di narrazione seriale, da David Bowie, ma un pezzo in particolare che ha dato anche il titolo a una serie TV piuttosto importante. Gran bella serie TV. Esatto, Life on Mars. Ed è l'ultimo dei 4 atti della puntata di oggi di Sono solo nuvolette. Gradito ospite Manfredi Toraldo, con cui stiamo spaziando tra genere, linguaggi, ce ne sarebbe tantissimo da dire, e tra l'altro sono uno dei pallini spiegare e chiarire per i gaijin, che in realtà gaijin vuol dire semplicemente per la religione islamica chi non è... Oddio, no, per i giapponesi. Stavo pensando gaijin a gentile per gli ebrei invece, esatto. No? Comunque ogni religione ha un termine per i neofiti di un... Gaijin è sicuramente diventato un termine nerd a suo modo, nel senso che esatto, ovviamente con tutta la cultura manga nerd che esatto, c'è al giorno d'oggi, sono poi quelli che seguono i qualche anniare Giappone che esatto, usano un termine come questo. Esatto, mi piacerebbe molto continuare a parlare di storia e narrazione, perché qui è un discorso vastissimo, però mi rendo anche conto che c'è un discorso Manfonte, c'è una produzione in corso, quindi... Parliamo un po' di questa produzione in corso Manfonte. Qual è stato il primo titolo? È stato Esso il primo titolo? Sì, noi abbiamo cominciato con il primo titolo inedito Esso, che è uscito appunto alla Lucca di 2 anni fa, insieme alla ristampa di Arcana Mater, che era un mio vecchio lavoro fatto per lo Scarabeo, che ho ristampato in contemporanea adesso, riveduto corretto. Esso però appunto il primo prodotto in assoluto è quello che ci ha fatto dire dai, proviamo a fare anche qualcosa di cartaceo. Esso nasce dal titolo, si intuisce come parodia di Asso, che è la autobiografia fumettistica, chiamiamola così, di Roberto Recchione, che abbiamo citato prima, e per poi in realtà andare in una direzione completamente diversa, nel senso che sì, rimane in qualche maniera una parodia di Roberto Recchioni, il protagonista di Esso, ma in realtà è servito per accennare un po' a quello che viene chiamato ormai in gergo fumetto mondo, quindi a tutto quello che gira in realtà soprattutto poi su Lucca Comics vera e propria, e lo stiamo ampliando adesso, perché per la prossima Lucca uscirà la seconda parte di questo fumetto, il sequel, che è la seconda parte poi di una trilogia, perché sarà una trilogia vera e propria Esso, e in questo sequel comunque abbiamo ampliato veramente l'argomento, abbiamo cominciato veramente a occuparci di tutto quello che è il fumetto mondo, quindi non solo più Lucca, e quindi arrivando anche a coprire quella piccola critica che ci è stata fatta da alcuni cari amici e da alcuni lettori del fatto di dire sì, ma nel primo in realtà avete intaccato l'argomento del mondo del fumetto e non avete detto niente di più, ma voleva essere un qualcosa appunto non tanto per nerd, ma aperto abbastanza a tutti. Infatti chi conosceva meno il mondo del fumetto ha trovato molto divertente Esso, e gli altri che lo conoscevano già hanno detto sì, però si poteva dire molto di più. Ok, adesso stiamo per dirlo. Vabbè, col secondo numero. Non è che volevate fare l'esegesi del mondo del fumetto, volevate raccontare una storia e raccontare assolutamente, qualcosa. Assolutamente, assolutamente. Però sai, una cosa importante che insegno sempre a scuola è che il buon lavoro narrativo è un lavoro che ha più livelli di lettura, quindi se c'è comunque una parte diciamo di puro e semplice intrattenimento accompagnata a un qualcosa anche di un pochino più approfondito, sicuramente male non fa. Poi è ovvio che uno non sia obbligato né a metterci alla parte più approfondita, né in realtà a registrarla, cioè a viverla. Uno può, l'importante è che ci si possa anche solo divertire. Il fumetto fondamentalmente, lo sappiamo, è letto soprattutto sul water e in treno, ma soprattutto anche sui treni, sui water di treni forse, quindi. Ok, certo. Quindi se qualcuno, visto che il bagno è dove si nascondono, il bagno dei treni è dove si nascondono quelli senza biglietto, quindi avete il numero più ampio di lettori abusivi, viaggiatori abusivi. Probabilmente sì, sarebbe un mercato da studiare. Certo, certo. Poi tra l'altro la cosa che aveva colpito a me da lettore di esso era la rapidità con cui avevate masticato e portato su carta determinate idee. C'è un personaggio, la controparte femminile, che si chiama Davvero, in esso è il personaggio protagonista di una serie che ha avuto una serie di vicissitudini editoriali di un certo tipo, e per cui che questo si riflette sul carattere, cioè le vicissitudini editoriali sulla serie si riflettono sul carattere del personaggio. Sì, in qualche maniera avevamo cercato veramente di fare una sorta di instant book, che col fumetto è molto difficile perché è molto più lungo da elaborare, esatto, rispetto ad un libro normale, no? E in realtà stiamo facendo la stessa cosa adesso. Basti pensare che tutto il secondo capitolo del nuovo capitolo di esso, quindi tutta la seconda parte del nuovo fumetto che uscirà per Luke, è molto incentrato su Mad Max. Okay. Che era una cosa, perché ovviamente abbiamo cercato di essere anche se già lo stiamo lavorando da diversi mesi, volevamo essere sul pezzo fin dall'inizio, quindi con qualcosa che sapevamo avrebbe colpito nella maniera giusta l'opinione pubblica, diciamo così. Ok. E ci sarà un secondo capitolo in senso stretto, quindi ampliamento delle relazioni interne tra i personaggi, riposizionamento di qualcuno del sistema dei personaggi. Sto parlando in gergo, lo so, però assolutamente, comunque per rispondere direttamente, sì, assolutamente sì, ci sarà lo sviluppo di alcuni personaggi, ci sarà anche la rielaborazione del ruolo della maggior parte di essi, e lo stesso esso, quindi il protagonista, apparirà in una maniera abbastanza inconsueta, citando poi quello che è anche l'evoluzione, per esempio, del lavoro, della sua origine metanarrativa, ovvero del buon Roberto Recchioni, che verrà in qualche maniera, appunto, esso andrà a citare anche quello che è successo a Recchioni nell'ultimo paio d'anni, perché ovviamente i cambiamenti che ha avuto Roberto sono stati enormi in questi due anni. È diventato, anche questo per parlarne a chi invece non è dell'ambiente, è diventato il curatore di Dylan Dog, che è il personaggio di punta di Sergio Bonelli Editore. Sì, a livello quindi fumettistico è forse la persona, ora come ora, onestamente, lo è da dire, è sicuramente la persona più importante dopo Zero Calcare nel nostro panorama fumettistico adesso. Esatto. Zero Altra Calcare. Novità... No, okay. Perché preso dall'impeto di dire sì, però chi non conosce, stavo per dire per chi non conoscesse Zero Calcare, ma forse non ha senso come esatto, frase in esatto, sé, esatto, visto esatto, le cifre che vende. Esatto. E l'ho visto, stavo leggendo in treno il giornale della libreria, che è il giornale informativo dell'AIA, Associazione Italiana Editori, e mi ha fatto molto piacere, in un certo senso con un briciolo di rivalsa, trovare nella classifica della Varia ben due titoli di Zero Calcare. Sì, assolutamente, ma soprattutto perché se lo merita, cioè nel senso che poi a prescindere dal fatto che possa piacere o non piacere, perché poi i gusti personali sono un discorso assolutamente da non andare a toccare, ma da un punto di vista puramente tecnico di come si sta gestendo proprio il suo sviluppo autoriale, il buon Michele si merita assolutamente, il vero nome appunto di Zero Calcare Michele, il buon Michele si merita assolutamente tutto quello che sta acquisendo come fama, ma già solo e anche grazie a lui che per esempio qua in Italia in qualche maniera stiamo sfondando le pareti del qualunquismo nerd, l'esempio pure semplice che appunto quando è stato presente per la prima volta Lucca con la profezia dell'armadillo, quindi ufficialmente pubblicato da Pau Publishing, che è parte di questo grande successo, effettivamente abbiamo avuto almeno un buon... diciamo un buon quinto del pubblico di Lucca, che era un pubblico di non lettori di fumetti, ma che era venuto solo per Zero Calcare, e quindi è una cosa importantissima per toglierci appunto da questo ghetto di cui abbiamo accennato anche un po' nell'intervento precedente. Ok, assolutamente. L'orologio segna le 16, quindi dobbiamo chiudere precipitosamente, e l'ora passa sempre molto in fretta, sembra tantissimo, invece passa sempre molto in fretta. Deve essere una qualche distorsione spazio-temporale su cui Doc Brown potrebbe darci una spiegazione. ti chiedo qualche coordinata spazio-temporale. No, Facebook o comunque social network per trovare Manfont. Beh, ovviamente il sito, ovviamente su Facebook ci trovate semplicemente come Manfont, su internet abbiamo comunque www.manfont.org per poter appunto seguire tutte le nostre novità e i nostri tanti webcomics. Abbiamo per esempio appena fatto diventare parte della nostra famiglia Crazy Nena, che è un bellissimo lavoro di Strisce Fumetti che apparirà ogni settimana appunto anche sulla Manfont. Ciao Serena Romeo, e in realtà io ti aspetto qui in radio, quindi te l'ho già chiesto una volta, ma adesso che sei dalla parte Manfont, col benestare di Manf, ti aspettiamo assolutamente, non accetterò più won't take no as an answer. Grazie Manfredi per essere stato qui con noi. Sono solo nuvolette, chiude a malincuore, ma qui fuori onda si parlava già di uno sviluppo di Sono solo nuvolette anche in direzione didattica, grazie a Manfredi che è sceneggiatore e insegnante, quindi ci può spiegare molto bene il fumetto mondo anche nelle coordinate nostre di uscire un po' dal ghetto, spiegare tutto quella meraviglia di universi che ci sono al di sotto di le pagine disegnate che piacciono sempre di più. Molto molto volentieri, grazie a te Fulvio e a tutti voi della radio per questa opportunità. Ok, cliccate mi piace su Sono solo nuvolette, venite a trovarmi su Twitter Fulvio The Cat, chiocciolina Fulvio The Cat. Manfa, hai scelto tu l'ultima canzone, quindi te la lascio annunciare e io do appuntamento a fra due martedì, perché il 2 giugno non vado in onda perché sono altrove. Ok, sì, grazie, appunto una canzone un po' malinconica, Le rane dei Baustelle, ma che io trovo veramente molto bella. Buon ascolto a tutti e grazie ancora a tutti per l'ascolto. Ciao a tutti.